4 mattino. Da lamentarsi di questa fase 2 di Conte, non Conte, ma se invece di stare a casa senza lavorare e con pochi soldi foste in una stanza di un ospedale con un tubo in bocca, o voi o un vostro congiunto, forse cambiereste idea. Già da ieri mattina a Milano e anche questa mattina in tangenziale liberi tutti, è come se il lockdown fosse finito. Buongiorno Simone, ma mi spieghi una cosa? Ma io cosa dovrei andare a fare a Congiunti in provincia di Chieti? Non conosco nessuno in quel posto. Ciao Simone. Vabbè, anche le battute sui luoghi, sui nomi dei luoghi. Il ragionamento sul riaprire, non riaprire, cosa fareste se aveste un parente intubato, in difficoltà o in ventilazione? Allora, io, diciamo, in linea di massima il ragionamento lo capisco, però mi permettimi, caro ascoltatore, lo trovo un po' retorico in tutta sincerità come discorso, perché è vero anche dall'altra parte che il rischio è di uno sprofondo economico e quindi queste persone giustamente ci ragionano, dicono vabbè, però se siamo pronti a partire con tutte le protezioni necessarie, se, che ne so, dal parrucchiere ci vai con tutto quanto, la mascherina, i guanti, la gestisci in un certo modo su appuntamento, senza fare le file, senza che all'interno ci sia più di un cliente, forse ci si può iniziare a ragionare. Il punto è semplicemente questo, no? Se no tutte queste aziende chiuderanno, evidentemente. Altro, c'è un po' di polemica sui parrucchieri e sul fatto che Conte, sui barbieri, sul fatto che Conte si presenta sempre con i capelli precisissimi. Ci arriveremo dopo nella parte di rassegna stampa con Paolo Mieli, perché è scattata una polemica anche su questo. Sì, a Milano sono ripartite molte cose, l'ho visto anch'io, per quel poco che giro, faccio la trasmissione, poi torno a casa come da prescrizione aziendale. E quindi, insomma, quando alle 9 del mattino un po' più di gente in giro l'ho vista, immagino che anche in tangenziale ce ne sia. Sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, la diretta su Facebook, siamo anche là, come sempre, per la seconda parte di 24 mattino. È mercoledì 29 aprile, sono le 7:20 e come sempre la parte dedicata alla rassegna stampa. Rassegna stampa con titoli che oggi sono un po' vari, molti hanno a che fare con la politica o con la lettura politica di questa fase della crisi da Covid-19 e della cosiddetta fase 2. Da una parte ci sono le parole che arrivano dal Presidente del Consiglio, che dice rischio alto, serve cautela, ve l'abbiamo fatto sentire anche in voce poco fa, dice non si può fare di più. Il ministro Speranza parla della possibilità di altre zone rosse, il rischio alto, serve cautela, è il titolo del Corriere della Sera. Regioni sotto esame è il titolo invece del Messaggero, che si concentra su questo. Non riaprite quella porta è il titolo del Manifesto, dedicato proprio alle parole di Conte, no? Sul rischio di un contagio di ritorno. Avvenire parla di ripartenze a freno tirato. Altri titoli li scelgono per esempio La Repubblica, che parla di un Conte sotto assedio proprio sul tema della riapertura, Conte sotto assedio dal punto di vista proprio della politica, delle tensioni che si stanno registrando anche con l'alleato Italia Viva, con Matteo Renzi, non solo da quelle parti. Il Quotidiano Nazionale anche qua parla di aperture su base regionale, la fase 3 sarebbe questa, non la fase 2, quella che partirà dopo il 18 maggio, l'ha annunciato ieri il ministro Boccia. Il Giornale più polemicamente parla di Conte che si inventa pure i prestiti d'amore. si riferisce alla frase di ieri del Presidente del Consiglio, chissà se Peter Bescapè ce l'abbiamo ancora sotto mano, quella di Conte sulle banche, ce l'abbiamo, via, facciamola sentire, va. No, non è pronta, vabbè, insomma la ritroveremo, non c'è problema, abbiamo mezz'ora per farla sentire. Da pandemia a pandemonio è il titolo di Libero. Il Fatto Quotidiano, il giorno nero dei nemici di Conte, riaprire tutto, destre, Renzi e Cei lo chiedono, ma il Papa smentisce i vescovi, Macron ritorna indietro, la Germania apre e fa schizzare i contagi, ieri altri 382 morti in Italia. Il Sole 24 Ore, sulla fase 2, le regole per evitare i rischi, con un po' di dettagli e di informazioni e anche un po' di spunti sulle categorie, ristoratori sul piede di guerra che dicono così falliremo, il Nord-Est che accelera la riapertura delle fabbriche, ma anche a centro pagina questa foto sullo sport, quasi 50.000 società sul filo della bancarotta. A centro pagina, il Sole 24 Ore riporta la notizia di Fitch che declassa l'Italia, il rating scende a tripla B- con outlook stabile, ed è questa l'apertura del quotidiano La Stampa. Fitch boccia l'Italia, torna il rischio spread. Gli atti d'amore ce l'abbiamo, eccolo qua. È un atto d'amore che chiedo anche al mondo bancario per l'Italia, per i cittadini italiani e per le imprese. Adoperatevi, il governo c'è, se ci sono dei problemi applicativi ditecelo, siamo disponibili a un incontro quanto rapido possibile, dobbiamo risolvere tutti i problemi, dobbiamo consentire alle imprese di poter disporre di finanziamenti per andare avanti. E questo appunto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sugli atti d'amore richiesti alle banche, sui quali sono scatenate, ovviamente su questa frase, come era prevedibile, sono scatenate un po' di ironie. Allora, da cosa iniziare oggi? Direi da questo pezzo del Messaggero a pagina 4 che ci dà un segnale preoccupante. Viene firmato da Mauro Evangelisti e Alberto Gentili e si riferisce al numero di posti in terapia intensiva. Cosa succede? Succede che i numeri di posti in terapia intensiva si stanno riducendo, cioè dopo l'incremento che c'è stato con il picco della crisi da Covid-19, le regioni hanno iniziato a ridurre i posti e la preoccupazione del governo si concentra anche su questo, perché se dovesse riesplodere, se dovesse esserci un'altra ondata del virus, come si affronta? Ridurre i posti di terapia intensiva solo perché il numero di pazienti Covid che ne hanno necessità è sceso sotto quota 2000 è molto pericoloso. La Lombardia, ad esempio, notano nel governo, rispetto all'incremento massimo di letti a disposizione quando l'epidemia aveva raggiunto il picco, ha rinunciato a un totale di 436 unità. La provincia autonoma di Bolzano, 101. Il Piemonte, 65. Si tratta però di una scelta strategica poco lungimirante, visto che tra i criteri di cui si terrà conto per riattivare il lockdown regione per regione c'è proprio un'insufficiente disponibilità di posti in terapia intensiva. Quando scatterà l'allarme, perché in una regione si accenderà la spia rossa della riserva, si dovrà chiudere. Oggi o domani il ministro della Salute Roberto Speranza fisserà più nel dettaglio tutti gli indicatori che fanno tornare una regione in lockdown. Si parte dal comma 11 dell'articolo 2 del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che recita: le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica del proprio territorio e in relazione a tale andamento le condizioni di adeguatezza del servizio sanitario regionale. Dunque qua c'è questo fronte di preoccupazione dove appunto anche la provincia autonoma di Trento ha ridotto di 40 posti la terapia intensiva, le Marche di 20 posti, la Campania di 159 posti e altre regioni invece le aumentano, un po' come se, stando almeno a questi dati, un po' come se l'epidemia fosse passata. Epidemia che non è per nulla passata, naturalmente. I dati ancora di ieri lo dimostrano e ci sono delle regioni che stanno soffrendo più di altre, lo sappiamo bene. Spesso ci siamo soffermati in queste ore sul Piemonte. Qua c'è un buon pezzo, una buona coppia di pezzi a dir la verità, uno di Giuseppe Bottero e l'altro di Andrea Rossi sulla Stampa, pagina 5. sul Piemonte su cosa effettivamente non ha funzionato. Andrea Rossi ci porta sui contagi senza fine e i morti nelle RSA. Gli esperti invitano alla prudenza perché ci sono stati troppi errori nella prima fase. Se il Piemonte ha scelto di non allentare la serrata, è perché la volontà di riaprire le attività e dare respiro al sistema economico si è scontrata con una curva dei contagi non ancora sotto controllo. La regione ha dovuto fare i conti con il parere degli esperti. L'andamento dell'epidemia sconsiglia alcune attività e anche ciò che verrà permesso. Vedi, le visite ai parenti andrà gestito con grande responsabilità, dice Giovanni Di Perri, che è il virologo a lungo inascoltato e arruolato solo da 10 giorni nella task force voluta dal presidente Cirio. Dunque, qua in Piemonte c'è un problema, è da giorni che lo diciamo, la curva dei contagi tende a non arrestarsi e quindi il governatore Cirio, il presidente della regione Cirio, è preso tra due fuochi: da una parte insomma la richiesta di ripartenza del sistema economico e dall'altra parte quello che dicono gli scienziati. Non si dica che, insomma, qua lo sapete, ogni tanto alle 6:30 è stata ospite nostra, abbiamo utilizzata insomma come per commentare un po' l'attualità, Irene Pivetti, E dunque di Irene Pivetti dobbiamo parlare, perché ieri, nei giorni scorsi, è già partita questa storia e ora è anche indagata per una vicenda che ha a che fare con le mascherine. I pezzi li trovate un po' su tutti i giornali. Prendiamo quello del Corriere della Sera con Claudio Bozza e Mario Gerevini, che parlano di questa inchiesta. La nuova tegola per Irene Pivetti. Ieri, dopo il maxi sequestro a Malpensa, la finanza di Siracusa ha sequestrato in varie città 9.000 mascherine importate dalla Cina da una società che fa capo alla ex presidente della Camera. Anche stavolta il reato ipotizzato è frode nell'esercizio del commercio. Pivetti, amministratore unico della Only Italia Logistics, è ora indagata. Le Fiamme Gialle le contestano che i dispositivi appartengono a una partita di merce per la quale il direttore centrale dell'INAIL ha vietato alla società importatrice l'immissione in commercio, perché sarebbero non conformi o avrebbero il marchio di non conformità. Lo ricorderete, Irene Pivetti con la casacca leghista fu a 31 anni la più giovane della storia della Repubblica a guidare Montecitorio la presidenza della Camera, e adesso appunto fa l'imprenditrice, ha molto sul commercio tra Italia e Cina e in questo momento appunto è indagata. Tra le altre cose, aveva un contratto con la Protezione Civile che prevedeva che una piccola percentuale di questa partita di mascherine potesse essere commercializzata dalla società di Pivetti in canali privati, tra questi anche alcune farmacie del Savonese, che però rivendevano le mascherine con ricarichi fino al 250%. Il tema è la mancanza della certificazione richiesta e anche un giro di società che portano anche a San Marino. Lei si dichiara innocente, dice che è stata truffata a sua volta. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Qua c'è, se volete, quasi una sorta di capovolgimento politico in una vicenda che ha a che fare invece con la pubblica amministrazione. Qua andiamo alla ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Durante un'audizione ieri in Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha detto, come sola ipotesi, ma si sono già scatenate le polemiche, che non dovranno essere dati i buoni pasto, non dovrebbero essere dati buoni pasto ai dipendenti pubblici che stanno lavorando a casa in smart working. Questo anche per permettere evidentemente allo Stato di risparmiare, ma non solo, perché evidentemente stanno a casa, quindi mangeranno a casa e quindi insomma non c'è bisogno dei buoni pasto. La riflessione arriva nell'ambito di un tavolo con i sindacati per parlare di varie questioni legate al lavoro da remoto, compreso quello del diritto alla disconnessione. In molte realtà, infatti, lavorare da casa sta comportando la pretesa da parte dei superiori di una disponibilità che va ben oltre il normale orario di lavoro. Vi ricorda qualcosa questo? Sta succedendo un po' a tutti i lavoratori smart working in questo periodo. E in questo mondo rovesciato, un po' rovesciato, a difesa degli statali si schiera il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale dice: invece di aiutare i lavoratori che aspettano da settimane la cassa integrazione promessa, Beh, da dire che gli statali, insomma, dubito che andranno in cassa integrazione. Il governo pensa di togliere anche i buoni pasto, ma hanno capito che siamo in guerra, i lavoratori hanno fame e famiglia o no? Attacca il leader della Lega. E il pezzo ce lo racconta Giusy Francese che lo firma. Siamo a pagina 12 del Messaggero. Prima di chiudere, una piccola storia. E dai, dobbiamo dircelo che questo è un atto di irresponsabilità, quello dell'ingegnere di Rimini, Erminio Nobili. La storia lo racconta Manuel Spadazzi sul Quotidiano Nazionale. Io, multato 14 volte, ma evaderò ancora. Record di sanzioni per un professionista 62enne, ma lo sa che per strada, racconta a Riccione, c'è gente che si ferma, mi ferma per farsi un selfie con me. Per qualcuno sono diventato un personaggio simbolo dell'Italia in quarantena, o meglio, dell'Italia che si ribella alla quarantena, ai divieti di spostamento e alle multe. Erminio Nobili, appunto, di multe ne ha già collezionate 14, l'ultima lunedì quando il 62enne ingegnere, bolognese d'origine ma con il cuore a Riccione, è stato sorpreso a passeggiare lungo la spiaggia. Stavolta a fermarlo sono stati i carabinieri, che ormai hanno imparato a riconoscerlo a distanza. Ingegnere, ancora. Ma i militari sapevano già la risposta. Voi multatemi, fate bene. Sono in torto, ma alle mie passeggiate, dice l'ingegner Nobili, non rinuncio. E nemmeno alle altre sue passioni. Tintarella al mare, partite nel campetto da basket, trekking nei boschi. Così l'ingegner Nobili. Certo che se tutti si comportassero come lui, insomma, da questa epidemia non usciremmo mai. Una pausa. Mattino. Buongiorno, questa dei 50 centesimi secondo me è una grossa esagerazione. A mio avviso un euro a mascherina avrebbe, come dire, non dico fatto contenti, ma comunque sarebbe stato equo e non avrebbe generato determinati problemi. Un euro ci può stare, no? È inutile che fate ironia su chi va in piazza o i vari politici, d'accordo? Quando ci saranno le categorie, tra poco, perché sarà tra poco, le categorie produttive del paese, commercianti, albergatori, ristoratori, parrucchieri, che verranno a Roma armati di praticamente protesta civile e di disobbedienza civile, ci sarà veramente da ridere. La questione parrucchiere secondo me è semplicemente fatta che la parrucchiera stessa deve stare a contatto con i clienti per tanto tempo, è un singolo contro un singolo, deve girarci intorno, ma c'è mille cose, certo ci potrebbero essere precauzioni, però la parrucchiera stessa è messa molto a rischio. Ed ecco anche i vostri dubbi, le vostre perplessità, le vostre riflessioni a proposito di proteste, insomma se ne parla, a Firenze si prevede per il 4 maggio negozi e ristoranti con le luci accese, i tavolini apparecchiati per clienti che non ci saranno, tanto per fare un esempio, lo racconta il Quotidiano Nazionale a pagina 10. Siamo con Paolo Mieli come ogni mercoledì. Paolo, buongiorno, eccoci, ciao. Eccomi, buongiorno, poi... La cosa segnalata da questo ascoltatore sui parrucchieri la riprendiamo, perché oggi dilaga. Sì, la questione parrucchieri è ovunque, già accennavo solo di sfuggita agli ascoltatori la vicenda dei capelli scolpiti del Presidente del Consiglio, sul quale si appunta qualche critica, però senti... Iniziamo dalla religione, perché è stata giornata ricca tra il Papa, no? Che insomma, frena i vescovi, per essere gentili, diciamo che frena i vescovi. Devo dire, ieri la giornata ha offerto due grandi sorprese. Una questa, perché i vescovi, ma quasi tutti il giorno precedente avevano detto ma no, eccessivo tenere chiuse le chiese, noi potremmo fare messa all'aperto, potremmo fare, sembrava che il governo dovesse piegarsi rapidissimamente, c'erano state interlocuzioni fra Presidente del Consiglio e Vescovi, quando ecco che compare il Papa e dice ma no, bisogna obbedire a Conte, ci vuole prudenza e obbedienza. Leggo dall'articolo di Carlo Marroni sul Sole 24 Ore, ma c'è su tutti i giornali, anche sul Messaggero, Simone Canettieri. Insomma, questo richiamo all'ordine del Papa una delle grandi novità della giornata di ieri, insieme a un'altra che è avvenuta in casa nostra, qui alla radio, di Berlusconi, che mentre Renzi denunciava in un'intervista ieri di violazione anche della Corte Costituzionale il governo, sì, un alleato, Berlusconi ha detto: ma no, bisogna stare dalla parte del governo, adesso sì, sostanzialmente sì, io lo decodifico. Ormai Berlusconi è il più, dalle onde radio del Sole 24 Ore, sembra essere sì, sì, il più solido. Sì, ieri era ospite, no, appunto, mio e di Maria Latella, e ha detto proprio questo, ha detto non, l'appoggio esterno no, non l'ha mai detto, era naturale che non lo facesse, e però ha detto, insomma, in questa fase, tutto sommato, il governo va sostenuto, gli sforzi per uscire da questa crisi vanno sostenuti, che è un po', l'hai ben decodificato, Paolo. Quindi, grandi congiure contro il governo, grandi congiure di cui dà conto appunto sempre il Sole 24 Ore. L'articolo di Lina Palmerini, per esempio, mette in evidenza, cioè, il Cavaliere Renzi, le due facce della fase 2. Uno, il più grande nemico, Renzi, e uno, il più grande amico, sia pure con le cautele che tu hai ben descritto. A proposito di religione e del Papa, sì, ti segnalo che ieri anche i buddisti sono venuti in soccorso del Presidente del Consiglio, perché Filippo Scianna, Presidente dell'Unione Buddista Italiana, ha detto che il Papa ha ragione e che lui è in totale sintonia con quello che ha detto Papa Francesco, che bisogna stare attenti perché prima di rivedere il lockdown sarebbe grave per le tradizioni stesse, che si ritroverebbero additate come responsabili di aver riaperto dei focolai. E se vuoi, sul piano internazionale c'è stata questa notizia clamorosa, io la prendo dalla verità, ma è un articolo di Ebrahim Musa comparso sul New York Times, che invita l'autorità islamica: bisogna sospendere il pellegrinaggio della Mecca. La Mecca ha detto che si può fare il pellegrinaggio a patto che i fedeli tengono un metro e mezzo di distanza. Chi ha visto le immagini, chi ha mai visto le immagini del pellegrinaggio alla Mecca, fatica a pensare che possa avvenire una cosa di questo genere. E infatti vedo che sei d'accordo con Ebrahim Musa, che sulla prima pagina, quindi non era un intervento qualsiasi, sulla prima pagina del New York Times ha detto: smettetela, sospendetela, fate come tutti in questo caso. Quindi Conte ieri ha avuto un grande schieramento religioso e mondiale, anche perché, se vuoi, ci possiamo mettere insieme che è stata per lui una giornata, lo metto fra mille virgolette, non voglio fare ironia su queste cose, ma la Germania, la Francia, la Spagna, che sembravano liberalizzare, ieri hanno alzato il freno a mano. Poi vedremo che le cose non sono così, ma insomma ti segnalo, a proposito di tutto questo e della politica, un articolo che vorrei che tutti ritagliassero e leggessero in attenzione, comparso sul Foglio, di Alessandro Barbano, l'ex direttore del Mattino: non è andato tutto bene. Se la pandemia ha testato il livello di efficienza delle democrazie, l'Italia non può vantare grandi successi. Ecco gli errori commessi nella fase 1, che saranno, dice lui, utili per la fase 2, e ne fa un catalogo molto molto interessante da ritagliare e conservare, come gli interventi di Marta Cartabia, credo che dica Cartabia, non Cartabia, la Presidente della Corte Costituzionale, che ha detto: ma quando mai, non c'è bisogno di rivedere la Costituzione o di forzarla in una situazione come questa, la Costituzione va benissimo così com'è. E nell'andare a esaminare chissà con chi della politica italiana, questo invece è stato visto come una tirata per i capelli, ecco, diciamo così, una tirata per i capelli a Conte. I capelli, non ti sto a intrattenere perché in furia perché poi adesso ci arriveremo sui capelli di Conte, e arriveremo anche a Francia e Germania. E però ti voglio ancora tenere un attimo sulla politica, perché abbiamo una Repubblica che parla di un Conte sotto assedio, cioè nonostante questo, no? parla di un conte sotto assedio, dall'altra parte un Fatto Quotidiano che parla, no, del giorno nero dei nemici di Conte, e insomma l'aspetto di un presidente del Consiglio un po' in difficoltà c'è da una parte, così come dall'altra parte sul fronte politico forse oggi è la giornata nella quale possiamo segnalare la maggior divisione tra nello schieramento di centrodestra, no? Questo è un dato, perché sai, l'assedio a Conte, si fa presto a dirlo, ma se Berlusconi, come abbiamo già detto nell'intervista a Tele Ratella, così insomma si chiama fuori dal partito che vuole far saltare Conte, si sono messi a litigare ieri anche Salvini e la Meloni. Sì. E questo è un dato registrato da tutti i giornali, perché questo litigio tra Salvini e la Meloni, più articoli su tutti i giornali di destra che parlano dell'appannamento di Salvini, non è più lo stesso, come se avesse perso la bussola. Questo fa sì che il fronte degli avversari di Conte ieri non sia stato fortissimo. Prendiamo su tutti, basta il titolo qua, no, del pezzo di Augusto Minzolini in prima pagina sul giornale, tra pasticci e sondaggi cosa succede al capitano, no? A segnalare che anche un giornale di centrodestra insomma comunque ci va giù abbastanza pesante, no? Ricordiamo che il giornale è stato il capofila dell'operazione, perché questa offensiva dell'amicizia fra Conte e Berlusconi è partita da una intervista qualche giorno fa, ne abbiamo parlato anche in questa rassegna, di Conte a Sallusti, al direttore del giornale, in cui Conte ha ricoperto il centro Forza Italia e lo stesso Sallusti di miele, marmellata, zucchero filato, sì, dicendo praticamente che lui legge solo e volentieri il giornale, che Sallusti, quello sì che è un avversario che lui rispetta, non come quei bruti di Meloni e Salvini. Sì. In più, se Meloni e Salvini si mettono anche a litigare tra loro, tra l'altro litigano su delle stupidaggini. La manifestazione di piazza. Salvini. Sì, sì, la perché manifestazione. La Meloni ha criticato l'idea di Salvini di fare una manifestazione, poi ne ha fatta una lei con i parlamentari. E lui si è risentito e ha detto le cose non si risolvono con le manifestazioni di piazza. Insomma, sì, proprio un po' così, non è da pandemia, direi proprio di no. Da situazione di questo tipo. Allora, il traffico, e poi direi possiamo andare proprio su Francia e Germania. Mattino. Ed eccoci di nuovo, dunque Francia e Germania. Alcuni giornali si spingono un po' avanti e parlano di retromarcia, di passo indietro e via dicendo. In realtà, guardare le cronache puntuali del Sole 24 Ore, siamo a pagina 24, sulla Germania Isabella Bufacchi e Michele Pignatelli, sulla Francia Riccardo Sorrentino, insomma le cose sono un po' più sfumate, no? È vero che sono sfumate, ma è vero anche che le notizie, se noi ci consideriamo europei, io questo lo vado dicendo da molti giorni, dobbiamo tenere conto che da noi non ci sono solo la Lombardia, la Campania, quello che fanno i vescovi, ma viviamo in un concerto europeo, e le notizie fra Italia, Germania, Spagna e Francia sono che le cose non stanno andando bene come avevamo previsto. Noi circa una quindicina di giorni fa abbiamo detto abbiamo raggiunto il picco, ormai è iniziata la discesa, e immaginavamo che questa discesa sarebbe stata rapida, e invece in Germania sono tornati a livelli preoccupanti, a livelli dove di contagio, sì. Il contagio è 1 e non 0,7, non stiamo a rispiegare la storia del fattore R. In Francia avevano detto l'altro ieri, ne avevamo anche parlato in questa rassegna, che il premier Philippe avrebbe annunciato una quasi totale liberalizzazione, invece ha tirato il freno a mano. E poi forse, guarda, noi dobbiamo passare da un contesto nazionale o internazionale, se vuoi, a uno più sofisticato. Oggi c'è un'importantissima, sarà l'intervista del giorno, di Aldo Cazzullo a Vittorio Colao, che dirige la task force per il nostro governo, e lui dice, guardate che l'approccio non sarà nazionale, neanche regionale, ma microgeografico, per intervenire in fretta nella zona più piccola possibile. Cioè lui, un po' lo schema Codogno, lo schema Codogno per intenderci. Esatto. No? Lui sostiene, dice, guardate, durante la fase 2 noi dovremo sorvegliare tutta l'Europa in realtà, ma lui si occupa dell'Italia, punto per punto, in modo e tutto si verificherà sulla nostra capacità di essere veloci a richiudere laddove si accendono i focolai. Spento il grande incendio, è normale, capita anche nelle foreste, poi si riaccendono, ma per mesi, piccoli incendi qua e là, e noi dobbiamo avere una forza da pompieri di identificarli rapidamente e saperli spegnere. Poi Colao, visto che ci siamo, è anche abbastanza scettico sulle app, su questa, perché dice o lo faranno la stragrande maggioranza degli italiani oppure è quasi inutile, cioè una cosa, e lui, l'ex amministratore delegato di Vodafone, a meno di questo, diciamo, se ne intende al 100%. Tra l'altro, sai che si era evocato, e ne abbiamo parlato anche qua, no? Un'ipotesi di Vittorio Colao a sostituire il presidente del Consiglio Conte. Anche su questo interviene, a domanda precisa, dice lui, no. Lui dice che non ci pensa nemmeno, che ha fatto tutto d'accordo con Conte, che lui non desidera altro che tornare. Poi racconta che lui continua a lavorare da Londra, dice se fossi tornato avrei dovuto fare 2 settimane di quarantena. E smentisce, attenzione, smentisce di aver mai proposto di chiudere in casa i sessantenni, smentisce, perché di questo si era parlato tantissimo. Questo gli riguarda a tutti i sessantenni, non tanto per essere chiusi in casa, ma per la paura che rimanesse questo stigma, che da 60 anni in su comincia la vecchiaia, e quindi sono dei vecchietti che devono essere trattati con dei riguardi particolari. C'era stata una rivolta dei sessantenni su tutti i giornali, sessantenni e oltre, non ti dico i settantenni, e quindi Colao dice, lungi da me, mai detta questa cosa dei sessantenni, questo devo dire molto. Senti Paolo, no, non ti sarà sfuggito, a proposito di task force, di commissari, non ti sarà sfuggito il polemicone del commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa su quelli che chiama i liberisti da divano, quelli che col centrifugato stanno là e parlano del prezzo delle mascherine, il tutto no, nell'atto di fissare questo prezzo a 50 centesimi a mascherina. Allora, povero Domenico Arcuri è stato il predecessore di Colao, cioè il primo tecnico chiamato ad affiancare Borrelli nella prima fase della pandemia. Lo hanno triturato come raramente una persona è stata triturata, anche Colao, però lui se ne è fatto di più ed è esploso, e questa polemica va oltre prezzo della mascherina. Sì, probabilmente è un accumulo di tensione da giorni, no? Evidentemente. E poi è una polemica contro tutti questi, effettivamente danno fastidio anche a me, ti posso dire, tutti quelli che da casa loro conciono, io avrei fatto così, io avrei fatto quella. Credo che se io fossi al volante mi farebbero venire i nervi, anche perché poi i social, il mondo web amplifica. Però Paolo, un po' di diritto di critica anche su certe operazioni, insomma, è lecito ed è anche lecito aspettarsi che una persona che ha un incarico così importante mantenga la calma. Sì, certo, però ci vorrebbe almeno un momento, dei giorni, e Arcuri non li ha avuti, dei giorni in cui si sospende il giudizio, gli si dà almeno 24 ore, invece appena dice una cosa. Tra l'altro tutto questo mondo è all'italiana, l'ex presidente della Camera Irene Pivetti travolta da una polemica per il commercio delle mascherine, cioè tutto avviene, i napoletani che io adoro, che la prima domenica se ne sono andati sul lungomare in misura eccessiva provocando i richiami del governatore De Luca. A proposito di questo, il primo maggio sarà un test importantissimo, perché venerdì prossimo se vedremo quello che abbiamo visto per il 25 aprile e la domenica successiva, quelli saranno guai seri, nel senso che gli italiani hanno interpretato questi messaggi come un tana libera tutti. Ti voglio portare ad altro, ma prima abbiamo lasciato solo un attimo in sospeso la questione Germania e Francia. Vi citavo, dato che qualche ascoltatore ce lo chiede, non a caso la questione della Germania. Il peso del Sole 24 Ore ci racconta, per esempio, che la Germania sta incrementando i posti in terapia intensiva e comunque ne ha 13.000 contro i 5.000 circa di partenza che ne aveva l'Italia, e quindi pur aumentando il livello dei contagi è un po' più serena e tranquilla, per il momento i piani non cambiano. Per quanto riguarda la Francia, ma sono stati loro però che hanno lanciato l'allarme. Sì, certamente. Quindi, loro che hanno molti più posti, tipo 4 volte tanto noi, di letti di terapia intensiva, lanciano l'allarme, figurati noi, perché noi facciamo presto a parlare, ma nel centro-sud, se questi focolai, io seguo la linea dettata da Colao, ma se queste cose scoppiano in località dove non ci sono posti di terapia intensiva, cosa si fa? Ma si organizza una cosa di camion militari per portarli lì in quel padiglione organizzato da Bertolaso? Insomma, la cosa è più complicata e non dobbiamo scherzare su due argomenti. Sì, e per quanto riguarda la Francia, invece, insomma, la marcia indietro c'è stata eppure no, in realtà, nel senso che il Premier Philippe si è presentato davanti al Parlamento, ha illustrato questo piano che partirà l'11 maggio, che prevederà una riapertura graduale delle scuole per territori, non riapriranno i licei e poi tutto si dovrebbe completare sostanzialmente in giugno, e se le cose andranno bene naturalmente, però articolato comunque su base territoriale con 700.000 test sierologici a settimana. Questo promette la Francia. Prima di chiudere, Paolo, ti vorrei portare su due altre questioni molto rapidamente. La prima è la questione libica. Qua andiamo sul Corriere della Sera, direi, pagina 27, con Lorenzo Cremonesi. Il golpe di Haftar, sono il nuovo Rais, l'uomo forte della Cirenaica, si autoproclama capo della Libia, anche se Mosca prende le distanze, insomma un colpo di mano pericoloso. Qua forse la notizia è proprio l'ultima cosa che hai detto, il fatto che Mosca, che ha sempre protetto direttamente o indirettamente Haftar, ha preso le distanze, e lo dice bene anche l'articolo di Roberto Bongiorno sul Sole 24 Ore, che lo chiama l'azzardo di Haftar. E sai cosa c'è? Leggendo i giornali italiani, ma soprattutto quelli americani, viene fuori che è una mossa di debolezza, sembra un colpo di Stato, un colpetto di Stato, il fatto che Haftar si dica da oggi comando io tutta la Libia, in realtà può essere per lui l'inizio della fine. Infatti le notizie, le ultime notizie che vengono stanotte è che ha ripreso i combattimenti, perché se adesso, quando uno dice adesso comando io, se poi quei pieni poteri non riesce a prenderli, sono dolori, come è accaduto l'estate scorsa da noi. Certo, non abbiamo tempo invece per parlare del Ponte di Genova, ma tanto con Maria Latella alle 8.20 tra poco avremo ospite il sindaco di Genova Marco Bucci, e quindi ampio racconto di quello che è successo ieri, del completamento del ponte. Paolo Mieli, non ci risentiamo venerdì, perché il 1 maggio la trasmissione non va in onda, ci risentiamo invece lunedì prossimo, nel primo giorno della fase 2, caro Paolo. Va bene, il primo giorno della fase 2 lo celebreremo adeguatamente. Ti ringrazio e tanti auguri a tutti per il 1 maggio. È stata a casa il 1 maggio. Mi raccomando, GR24 tra poco.